La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Il tema della giornata è l'appello del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al governo, un appello a non perdere tempo in inutili polemiche. Che cosa ne pensate? Vi ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666. E che cosa ha detto Squinzi? Lo sentiamo adesso. Abbiamo dato fiducia a questo esecutivo e speriamo di aver ben riposto le nostre attese. Anche se vedo che non si perde occasione per trovare ogni giorno futili motivi di scontro, inutili e che non fanno che generare negli italiani nuovi motivi di disaffezione dalla politica. Si è detto che il Paese e le sue imprese sono fermi da quasi un quarto di secolo. È vero, ma solo in parte. Stiamo vivendo una lunga planata, lenta, il combinato di una serie di fenomeni congiunturali è il segno di debolezze più profonde che dobbiamo correggere tutti insieme. E cosa ne pensano le forze politiche? Sentiamo Roberto Speranza, capogruppo PD alla Camera. Ma questo è un governo nato per dare risposte ai problemi degli italiani. Squinzi ha posto sempre questa vicenda, cioè di rimettere al centro i problemi veri delle imprese, dei cittadini, dei lavoratori. In questo senso mi pare che ci sia una sintonia tra le sue parole e il tentativo che il governo sta facendo in un clima non facile, dentro anche una battaglia che stiamo giocando sul terreno europeo. Ma questo è un governo che con i fatti deve dimostrare, come già iniziato a fare, di essere capace di dare risposte concrete agli italiani. Io sono convinto che i soggetti sociali, Squinzi, la Confindustria, ma anche i sindacati, possano essere in linea con questa impostazione. Però lui ce l'ha proprio anche un pochino con la CGIL, questo rapporto studi che dà un'idea molto pessimista su come poi si riprenderà sulla disoccupazione. Ma il rapporto della CGIL disegna un quadro drammatico che è il quadro reale, ma il punto oggi è come tutte le forze sociali assieme, quindi sindacati e Confindustria, insieme a questo governo riescono a costruire risposte ai nodi veri degli italiani. E io sono ottimista, penso che questo sia un terreno possibile ed è un terreno in cui la politica deve cimentarsi fino in fondo con coraggio. E questo era Roberto Speranza del Partito Democratico. Uno dei nostri radioascoltatori dice: io sono quello della decrescita felice, e sottolineo felice perché tu ci ridi sopra con supponenza. No, io non rido sopra proprio alla decrescita. Comunque, domanda, ma tu credi veramente che il mondo ritornerà a consumare come prima? Io questo non lo so, però voglio sapere che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle. Allora l'ho chiesto a Carla Ruocco, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera. Sentiamo che ci ha detto. Il Paese infatti ha bisogno di risposte immediate e noi dal punto di vista economico proponiamo proprio quello che ha fatto sempre grande l'Italia, cioè la valorizzazione del Made in Italy e di tutto ciò e tutti quegli aspetti in cui l'Italia è stata grande e competitiva negli anni. Quindi questo garantisce livelli occupazionali robusti, consistenti e soprattutto che si fondino proprio su quelle che sono le particolarità della cultura proprio dell'italiano, la creatività, la gastronomia, penso al lato artistico museale, tutti quei settori che sono addirittura turistico, che sono addirittura sottosviluppati in questo momento e che sviluppandoli e dando loro alimento, togliendolo a settori improduttivi e contingenti, ecco che farebbero rinascere una volta per tutte il tessuto economico. Quindi lei condivide l'analisi di Squinzi che il Made in Italy è il prodotto su cui noi dobbiamo puntare. Questa crisi però, lui dice, è causata da un crollo interno dei consumi. E come se ne esce per il Movimento 5 Stelle? Si riusciranno a raggiungere i livelli occupazionali del 2007? La CGIL è molto critica al riguardo. Ma il crollo interno dei consumi non è un qualcosa che è nato dal nulla, ma è un effetto recessivo di manovre economiche sbagliate e di investimenti a monte in settori sbagliati. Quindi che cosa pensa, per esempio, adesso che il Consiglio dei Ministri è riunito per discutere del caso dell'Ilva di Taranto? L'Ilva di Taranto è stato anche lì, è il frutto di un cattivo lavoro che è stato compiuto finora. L'Ilva di Taranto, tra l'altro, purtroppo l'unico esempio è quello più recente e sicuramente tra i più gravi, ma per il passato e tuttora ce lo portiamo dietro. C'è l'Italsider di Bagnoli, che insomma puntare sul siderurgico in un'area del genere, voglio dire, veramente significa il suicidio. Termini Imerese, che ha fatto purtroppo la fine che ha fatto, e invece sono aree a vocazione turistica che dovrebbero essere assolutamente recuperate e per un futuro per sempre. E questa è la ricetta del Movimento 5 Stelle, quindi cominciamo più a capire che cos'è sviluppo sostenibile, perché adesso non usano nemmeno più loro il termine decrescita felice, ma intanto i vostri sms, stampare moneta, l'inflazione non salirà perché i mezzi di produzione sono sottoccupati, al diavolo l'euro, dice Agostino. Cialtroni non si smentiscono mai, discutono di presidenzialismo, come se in questo momento ce ne importasse qualcosa. L'unica cosa da fare è mettere i soldi in tasca agli italiani. Non si capisce, dice Ruggero, in che modo Confindustria ha dato fiducia al governo, rinunciassero ai loro finanziamenti per destinare le risorse agli esodati invece di riempirsi la bocca. E Grillo poi ha lanciato il sondaggio sulle TV e sui giornalisti. E indovinate che cosa è venuto fuori? Che i più faziosi sono Rete 4 e Bruno Vespa. Però, caro Beppe Grillo, tu hai un po' scoperto quello che si dice in inglese hot water, l'acqua calda. E anche a proposito di acqua calda, anche un radioascoltatore adesso ce lo scrive: a quando la scoperta dell'acqua calda da parte dei 5 Stelle? Ecco, l'era arrivata, vabbè, ma non, ora poi mi dite che sono antigrillina, no, ma è chiaro che questo sondaggio ha delle basi di verità, purtroppo anche per noi giornalisti. Allora, altro tema all'ordine del giorno invece è la sentenza Unipol. Rese note le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano che condanna il Cavaliere ad un anno di carcere. Berlusconi ascoltò la telefonata tra Fassina e consorte, in cui l'allora presidente di Unipol informava l'ex leader DS della tentata scalata di BNL a Unipol. Il ruolo di Silvio Berlusconi fu decisivo per l'apporto in termini di concorso morale, perché senza l'ex premier non si sarebbe realizzata la pubblicazione. A questo proposito abbiamo sentito Enrico Costa, capogruppo PDL in Commissione Giustizia alla Camera. Guardi, è proprio un paradosso. In una Repubblica che sotto il profilo della segretezza delle intercettazioni, un vero colabrodo, l'unico che viene punito è Silvio Berlusconi, cioè l'uomo che da sempre fa una battaglia contro il segreto d'ufficio che viene quotidianamente divulgato. Quindi è sempre la giustizia ad orologeria, la giustizia politicizzata? Ma io, guardi, non voglio parlare di giustizia ad orologeria, dico semplicemente che qualunque italiano sa la battaglia che ha fatto Silvio Berlusconi in materia di intercettazioni, in materia di privacy, in materia di riservatezza delle comunicazioni, e il fatto che oggi i giudici abbiano voluto punire proprio lui dimostra che molto probabilmente questo è, se non una ritorsione, quantomeno un atto simbolico. Ma come giudica per esempio le parole di Beppe Grillo, che dice che Berlusconi vuole diventare il duce d'Italia? Beh, devo dire che Beppe Grillo è un comico. Qualcuno di voi mi dice: ma vi siete dimenticati di Santoro, Floris sul sondaggio di Beppe Grillo? Ebbene, Rete 4 è la prima, seconda Rai 3, tra i direttori di TG sono in testa Giovanni Toti del TG4, e Studio Aperto, il TG3 di Bianca Berlinguer, tra i conduttori di talk show in testa Bruno Vespa, secondo Barbara D'Urso, terzo Paolo Del Debbio, quarto Giovanni Floris. Quindi vi abbiamo dato tutta quanta la statistica, e è anche tempo di chiudere ricordandovi l'ultimissima notizia: c'è uno scontro all'interno della Lega, Maroni risponde a Bossi, le sue interviste ci danneggiano. Un saluto da Montecitorio e da Elisabetta Fiorito.